tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea Ponte Radio, uno spazio di collegamento tra radio auto-organizzate. E buon pomeriggio a tutte e tutti, ben ritrovati qua sul Ponte Radio delle Radio Sorelle, Radio Onda Rossa, Radio Wombat, Radio Quar, Radio Eustachio, ma ridondante è questa informazione perché già la bellissima sigla ce lo ha confermato. A questo giro il Ponte Radio è in quota Radio Wombat e oggi sono qui con il buon Mario che saluto qui dall'altra parte del tavolo. Sono qui Tuco, sono qui al tuo fianco, non mancherò, sono il tuo fedele gregario, il tuo scudiero. ecco, meglio scudiero. Il tuo Sancho Panza, il tuo Little John, il tuo Barrichello. No, amico mi piace mio. Sancho Panza, andiamo a combattere contro i mulini a vento, mi piace di più. Di cosa parliamo oggi? Abbiamo un'introduzione, in realtà, un'introduzione molto bella, interessante da ascoltare in vista delle, insomma, di un po' di mobilitazioni dell'autunno. Ora non vi spoilerò niente, tanto lo sentirete dalle parole di Papà Orso. Appunto, lo sentirete fra poco. E poi dopo inizieremo un bel viaggio con noi per un'oretta. Parleremo di Europa, però parleremo di Europa un po' in salsa balcanica, diciamo vedendola da un punto di vista, diciamo con un focus dall'alto, ma poi vedendola dal punto di vista di paesi che poi in realtà di Europa non fanno veramente parte, cercano di esserlo, vorrebbero, ma ancora non lo sono, però c'entrano con l'Europa, perché i confini, come sappiamo, non contano un cazzo, sono solo confini amministrativi al massimo, e quindi quando si deve parlare di anche un grande territorio si deve parlare anche di quello che c'è nel mezzo, attorno, vicino, e oggigiorno in realtà anche lontano, lo sapete, per chi mi ascolta nell'ora dei Balcani, purtroppo e per fortuna, no, purtroppo appunto, la geopolitica è anche appunto parlare un po' di tutto. Ma oggi ci concentriamo sull'Europa e con una visione diversa, quindi fate questo viaggio con noi, iniziamo a sentire subito, no? Dico bene? Ebbene sì, sentiamo davvero Papà Orso, perché sentiamo Alessandro Orsetti, il babbo di Lorenzo Orsetti, il partigiano Orso Tecocher, che qui non ha insomma bisogno di presentazioni, no. Ricordiamo soltanto che è caduto nel 2019 combattendo contro l'ISIS in Rojava, ma diamo subito la parola, direi, al padre, appunto ad Alessandro, perché ci sta per annunciare quello che sta per succedere inizio ottobre, quando il movimento curdo invita a una mobilitazione per la liberazione o quantomeno per l'attenuazione delle misure legate all'isolamento di Öcalan. Sono in programma tre manifestazioni, a Roma il 10 ottobre, a Milano l'11 e a Torino il 12 ottobre, ma direi che diamo subito la parola a lui, ascoltiamo che cosa ci ha detto, l'abbiamo contattato proprio in questi giorni e sentiamo quindi. Mi chiamo Alessandro Orsetti, io Lorenzo, Orso come lo chiamavano gli amici, Tecocè come lo chiamavano i curdi, nell'agosto del 2017 è andato a sostenere nella Siria del Nord-Est la rivoluzione del popolo curdo. E lì è morto nel 2019, il 18 marzo, in un'imboscata per colpa dell'ISIS e delle unità turche. Lui ci credeva in questa rivoluzione, era lì da un anno e mezzo, aveva avuto modo di capire profondamente il confederismo democratico, questa stupenda costruzione, utopia sociale realizzata in quelle terre da il loro leader Öcalan. Ho avuto modo, per colpa di questo, a causa, per colpa di questo coinvolgimento personale doloroso, ma al tempo stesso che mi ha riempito di tanto orgoglio, di approfondire questa utopia concreta. E per questo oggi parlo, oggi diffondo un comunicato per la sorte del loro leader Öcalan. Öcalan è uno dei fondatori del PKK. Il PKK, nato nel 1978, è il Partito Curdo dei Lavoratori. Questo partito è nato in Turchia e in cui tutti questi anni ha sostenuto la sorte del popolo curdo per questa lotta anticolonialista, sociale, di classe che ha sempre fatto questo popolo rispetto all'oppressione che sta tuttora subendo. Sappiamo che la Turchia ha sempre combattuto contro questa riscoperta da parte dei curdi della loro identità di popolo, ha sempre combattuto il tentativo di autodeterminazione di questo popolo. I 50 milioni di curdi sono distribuiti tra Turchia, Iraq e Siria, e in ognuno di questi stati sono oppressi e non viene riconosciuta la loro identità. Solo in Siria, dal 2011, hanno potuto dare vita a un'amministrazione autonoma che gli consente di amministrarsi autonomamente. Öcalan è stato sequestrato il 15 febbraio 1999 a Nairobi, in un'opera di collaborazione tra i servizi segreti turchi, il famigerato MIT, gli israeliani Mossad e gli statunitensi la CIA. Era arrivato a Nairobi passando i vari stati europei, ma sempre non aveva potuto ottenere quell'accoglienza, quell'asilo politico che aveva chiesto ripetutamente. Anche in Italia, malgrado Massimo D'Alema, allora primo ministro italiano, avesse provato a dare, avesse in un primo momento rassicurato, poi successivamente per richieste pressanti di Clinton e della segreteria di Stato, aveva invece invitato Öcalan a lasciare l'Italia, a vagare prima in Grecia e poi a Nairobi. Là degli specialisti addestrati ai rapimenti l'avevano preso e portato in carcere in Turchia. Öcalan dal 15 febbraio 1999 è imprigionato in carcere di massima sicurezza in un'isola disabitata di Imrali sul mar di Marmara. Lì c'è solo un carcere e una fortezza militare ed è una condizione veramente disumana, di assoluto isolamento. In realtà in prima battuta era stato condannato a morte il 29 giugno 1999, però in quel periodo la Turchia sta facendo pressioni per entrare all'interno dell'Unione Europea e quindi ha dovuto sospendere la pena di morte. Öcalan ha una condizione di detenzione che è considerata tortura dalle Nazioni Unite. Abbiamo due sentenze, una della Convenzione Europea per i diritti umani, che ha condannato nel 2005 Ankara per un processo ingiusto chiedendone la revisione, e un'altra sentenza è del 2014 e ha condannato la Turchia per reato di tortura e ne ha chiesto la libertà condizionale. La sua detenzione, la sua condizione detentiva è inaccettabile. Era il solo detenuto a Imrali fino al 2015 e dal 2015 sono arrivati altri tre militanti del PKK. È in isolamento, quindi da circa tre anni non abbiamo nessuna notizia sulla sua sorte. Dan Imrali non trapela nulla. Fino al 2015 Öcalan poteva comunicare con il mondo e da lì è nato quel processo democratico, il confederismo democratico, che pone al centro la soluzione della questione curda con la politica. Ha scritto libri, ha scritto tanti articoli, ha studiato e ha potuto proporre un cambiamento radicale dell'impostazione della lotta del popolo curdo, una lotta che potrebbe servire, un approfondimento che potrebbe servire anche tutti gli altri popoli. Dal 2015 gli è stato privato di ogni mezzo di comunicazione E poi gli sono state vietate le visite familiari, gli incontri con gli avvocati. Tutte le richieste dei difensori sono risultate inascoltate, anche gli appelli delle organizzazioni dei diritti umani, tutte le manifestazioni di proteste e le mobilitazioni internazionali. Anche lo sciopero della fame che molti altri militanti hanno fatto in quegli anni, nel 2018 e negli anni successivi, non hanno portato a nessuna conseguenza. Solo nel 2019 Shalan ha potuto incontrare i suoi difensori, e ai quali ha comunicato la richiesta per i sostenitori di porre fine allo sciopero della fame. Però dopo l'incontro del 7 agosto 2019 nessuno ha potuto vederlo. Una breve telefonata nel 2021 e poi nessuna notizia. Ocalan in realtà è privato del diritto alla speranza, quel principio per cui ogni condannato ha il diritto di sperare in una commutazione di pena. La sua carcerazione viola le leggi stesse della Turchia, in cui i familiari hanno diritto a far visita ai parenti incarcerati. Questo isolamento non corrisponde alle leggi, alla democrazia, all'umanità. Si potrebbe pensare che il suo isolamento, l'isolamento di Ocalan, è simile all'isolamento che in questo momento sta provando la popolazione curda e la lotta della popolazione curda per i propri diritti e per le proprie possibilità future. In questi anni più di 50.000 persone curde hanno perso la vita in quelle terre per poter vivere come la propria cultura gli suggerisce. Questo isolamento in realtà si configura come una pratica disumana che equivale alla tortura. Le sue condizioni sono incerte, incontrollate e imprevedibili. Non ha protezione legale. Ricordo che l'isolamento comprende anche il divieto di comunicazione, niente lettere, mail, fax, registrazioni. Non può incontrare avvocati, non può incontrare familiari. Ed è per questo che nel 2023 è nata una campagna da parte del popolo curdo per chiedere all'Europa, al mondo, di sostenere la liberazione o perlomeno la fine della detenzione, la fine dell'isolamento di Ocalan. La campagna partita il 10 ottobre 2023, che era per rilanciare la liberazione di Ocalan, è stata lanciata da Strasburgo, sede del Consiglio d'Europa e del Comitato per la Prevenzione della Tortura, le due istituzioni che si potrebbero impegnare e potrebbero portare dei risultati per la liberazione di Ocalan. Si è snodata verso due particolarità. Una, quella di chiedere a politici, premi Nobel, mondo della cultura, artisti, eccetera, di inviare messaggi di solidarietà, sia individuali che collettivi, per la liberazione, per l'attenuazione delle condizioni di isolamento di Ocalan e successivamente eventualmente per la sua liberazione. Dall'altra c'è stato un grosso lavoro per far conoscere a tutto il mondo sia le sue condizioni, ma anche tutti gli scritti, gli aspetti culturali, le proposte che in questi anni ha elaborato. Questa seconda parte è estremamente importante perché non sono molte le persone che conoscono poi approfonditamente questo aspetto filosofico-politico che può veramente aiutare a capire quanto potrebbe essere utile alla pace la liberazione di Oceano, o perlomeno il riconoscimento di questa, del confederalismo democratico. Per ora non ha dato i risultati sperati, però il popolo curdo, la sua amministrazione chiedono di riprendere anche quest'anno questa campagna, oltre quindi a raccogliere firme, sottoscrizioni di avvocati, politici, artisti, associazioni, eccetera, e a diffondere il pensiero del confederalismo democratico, a far portarlo a conoscere con letture collettive, distribuzione dei libri, eccetera. Invitano anche a chiedere alle amministrazioni comunali, ci sono state recentemente elezioni in molti comuni italiani, a chiedere alle amministrazioni comunali dimostrazioni di solidarietà e al tempo stesso conferimento di cittadinanza onoraria a Ocalan. La fine dell'isolamento di Ocalan e al tempo stesso la possibile liberazione aprirebbe uno scenario di pace per quei territori del Medio Oriente. Ricordiamo che il confederismo democratico parla di liberazione della donna, parla di democrazia diretta, in cui tutti, indipendentemente da regione, censo, etnia, gruppo, eccetera, partito, eccetera, possono contribuire alla vita democratica di una comunità. Parla di ecologia sociale, quindi parla di un rapporto con il territorio ecologico, rispettoso dell'ambiente. Tutto il popolo curdo non chiede uno Stato, chiede la possibilità di vivere in piccole comunità, realtà aggregate, confederali, secondo questi principi. È un processo di pace e sicuramente la liberazione di Ocalan potrebbe contribuire a questa pace. Noi quindi proponiamo che le nostre amministrazioni, come ha fatto a Firenze il Dimitri Palagi, consigliere nel Consiglio Comunale, che ha chiesto nel Consiglio Comunale, ha presentato un'interpellanza, sia perché il Comune di Firenze conceda a Ocalan la cittadinanza onoraria, sia perché invii in solidarietà al Ministero, alla Regione, al nostro governo, una proposta diplomatica presso la Turchia per la liberazione, l'attenuazione dell'isolamento e la liberazione di Ocalan. Noi militanti, noi popolo, noi vicini a questa causa, possiamo fare molto. Continuiamo a diffonderlo, organizziamo attività, letture, manifestazioni, coinvolgiamo persone di spicco, ma anche tanti semplici cittadini in questa campagna per la liberazione dello Ocalan, per una soluzione politica al popolo curdo. Sono previste anche 3 manifestazioni, il 10 ottobre a Roma, l'11 ottobre a Milano, il 12 ottobre a Torino. E speriamo che siano manifestazioni vissute con presenza e con forza per far sentire il popolo italiano, la comunità italiana, solidale con Ocalan. E rieccoci qua, per chi si fosse appena collegato, questo è il ponte radio fra le radio gemelle, Radio Onda Rossa, Radio Wombat, Radio Quar e Radio Eustachio. In apertura abbiamo sentito le parole di Alessandro Orsetti, papà di Orso, che ci ha raccontato in breve, in pillole, quella meraviglioso utopia, l'ha chiamata lui, comunque esperimento sociale, utopia, che poi effettivamente è qualcosa di concreto, non è qualcosa di così su teorico, è qualcosa che veramente viene messo in atto in Siria e che andrebbe difeso molto di più. Purtroppo spesso non se ne parla pochissimo ormai. Ma la Turchia continua, a volte ne parliamo sulle onde di Radio Wombat, perché la Turchia continua a uccidere e a combattere i curdi della Siria, e quindi chiaramente ci aggreghiamo a questo appello per la liberazione o quantomeno una riduzione delle restrizioni delle libertà fondamentali di Öcalan. Sicuramente ci ripromettiamo anche di risentire Alessandro a seguito di questo periodo di manifestazione, e col prossimo Ponte Radio, nel quale la regia sarà a noi ancora di Radio Wombat, vi daremo ancora conto di come è andata, risentiremo ancora Alessandro al mese prossimo. Che bello, è importante, sono lotte importanti, non sono le uniche, anzi è pieno di lotte purtroppo, perché questo mondo fa cagare, però insomma continuiamo anche a diffondere ciò che a volte ci scordiamo perché è lontano da noi e dai nostri occhi. Partiamo però col nostro viaggio, direi, a questo punto. Dove ci porti, buon Tuco? Appunto, vi dicevo che parliamo un po' di Europa in modo strano e diverso, e partiamo in realtà a parlare di rete ferroviaria, che è un po' un qualcosa di strano, la rete ferroviaria, perché supera i confini dei vari paesi, che siano Europa o meno, e parliamo velocemente un po' di quello che l'Europa sta facendo per, diciamo, l'ampliamento e viste le politiche del Green Deal, che poi bisogna vedere se le porteranno a termine, dell'Unione Europea, avranno un ampliamento. Insomma, comunque andiamo nel vivo della notizia, che parte da questa considerazione. Negli ultimi, diciamo, cadere la musica per avere il giusto appeal, negli ultimi due decenni gli investimenti nella rete ferroviaria europea da parte dei governi nazionali dell'Unione Europea sono stati ampiamente inferiori rispetto a quelli destinati alla rete stradale. I dati OCSE mostrano infatti come tra il 2000 e il 2019 siano stati investiti più di 1.300 miliardi di euro per il trasporto su gomma e solo 850 miliardi per quelli su rotaia. Questi due confermano una tendenza intrapresa da Bruxelles e dai governi europei da decenni, che dà priorità alle strade rispetto alle ferrovie. Ma come sappiamo, quando parliamo anche di una certa TAV, in realtà poi il trend è un po' cambiato. La rete ferroviaria ad alta velocità, infatti, la parte di rete su cui si sono concentrati i maggiori investimenti negli ultimi 30 anni, è quella che tra il 2008 e il 2022, in proporzione, si è allungata di più, più 43%, ma rimane di gran lunga meno sviluppata rispetto alla rete autostradale, che nel 2021 misurava 73.550 km. Un più 16% rispetto al 2008, per intendersi, contro i 24.446, quindi 73.000-24.000, ok? 73.000 autostrade, 24.000 km complessivi invece di ferrovie ad alta velocità. Nel frattempo la lunghezza complessiva della rete ferroviaria convenzionale è addirittura diminuita, passando da 186.280 km a 177.000, quindi insomma 10.000, meno 4,8%, che non andiamo a parlare. Immagino anche che se andassimo a guardare anche quali sono i convogli e quanti sono i convogli che su queste reti circolano, ci troveremo una riduzione anche lì, come conosciamo, insomma, qua per i disagi dei pendolari che nel quotidiano usano la ferrovia per spostarsi. Assolutamente, questo trend di aumentare l'alta velocità a discapito spesso e volentieri dei treni invece di breve percorrenza è un trend europeo, è un trend italiano molto, ma anche abbastanza europeo. Nel 2020 l'Unione Europea ha presentato il Green Deal, dicevamo. Però tra poco ne parleremo, ci sono state le nomine ora del nuovo governo Ursula, di quella che viene dichiarata il governo accentrato, dove lei avrà uno strapotere, e si hanno molti dubbi sul fatto che riuscirà a portare a termine quello che il Parlamento Europeo invece ha deciso per quanto riguarda il Green Deal. Ma staremo a vedere, questo è futuro, quindi sarebbe prematuro. Tra le tante misure per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica, che sarebbe per il 2050, si prevede di ridurre le emissioni derivanti dal settore dei trasporti. Quest'ultimo infatti contribuisce per il 25% delle emissioni totali dell'Unione Europea. Quindi il 25% delle emissioni che l'Europa emette nell'aria sono date proprio dai trasporti. Con il trasporto su strada in particolar modo, che a sua volta causa il 72% delle emissioni generate dai trasporti. Quindi di questo 25%, il 72% è dato proprio dai trasporti su gomma, che sono quei maledetti camion che trovi su l'autostrada, a me mi fanno un sacco paura tutte le volte. Anche a me, francamente anche a me, davvero. No, e poi comunque... Fanno anche un sacco puzzo. Va detto che... A parte che è un lavoro che a volte si presta anche allo sfruttamento proprio del lavoratore stesso e di usura... E ci possono succedere gli incidenti se guidi per 24 ore di fila, cioè, quindi sarebbe anche un po' un miglioramento da un altro punto di vista, anche della qualità della vita. Sì, leggevo anche di recente quanto siano diminuiti gli autisti giovani e quanto ci sia oggi, almeno in Italia, una grande carenza di autisti sotto i 50 anni. È un problema all'orizzonte, per cui molti andranno in pensione, non c'è attualmente ricambio in vista. Quindi no, effettivamente è un lavoro davvero usurante, tanto che chi può non lo fa. Infatti in tutto ciò stavamo dando un po' di percentuali. La percentuale delle emissioni di questo 25%, che sono le emissioni dell'Unione Europea, per quanto riguarda il trasporto su rotaia, è lo 0,5%. Poi c'è questo buco fra il 72% e lo 0,5%, che è tutto il resto, che probabilmente si lega, non so, anche al trasporto pubblico interno, anche e alle macchine. Certo. Chiaramente. Anche a fonte degli investimenti sulle auto elettriche, il treno rimane un mezzo di trasporto più sostenibile. Negli ultimi anni sembra esserci effettivamente stato un cambio di paradigma, come conferma l'inchiesta di Investigate Europe del 2021 e una ricerca commissionata da Greenpeace a Transportation Think Tank e Wuppertal Institute. Entrambi gli studi mostrano come i fondi destinati al trasporto ferroviario provenienti dalle casse dei governi europei e da Bruxelles siano aumentati negli ultimi 5-6 anni, ma non sono ancora abbastanza per tagliare in maniera significativa le emissioni generate dai trasporti e ridirigere davvero gli investimenti verso le ferrovie. Quindi è ancora un po' su carta questo investimento, che va principalmente sull'alta velocità e quindi poi tutto sommato sul cittadino medio. Parliamo però di fondi europei, andiamo certo. A parlare di ciccia. L'Unione Europea finanzia lo sviluppo delle reti e dei sistemi di trasporto nel suo territorio attraverso tre principali strumenti: il Fondo di Coesione, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e la Connecting Europe Facility. Secondo i calcoli di Investigate Europe, quindi qui dicevamo poco fa che ha fatto questo studio, durante il settennio 2007-2013 questi fondi nel complesso avevano finanziato il trasporto ferroviario in Europa con 23,2 miliardi di euro e quello via gomma con 46,5, quindi un dislivello interessante, cioè ampio di investimenti per quanto riguarda la gomma. Successivamente, nel settennio successivo, quindi 2014-2020, questa differenza si è assottigliata, passando ai 19,5 miliardi destinati alle ferrovie contro i 33,7 per le strade. Ma lo squilibrio è rimasto. Ad esempio, in Romania, nel 2020, il fondo di coesione aveva stanziato 1,3 miliardi di euro per aumentare la velocità di un tratto delle linee ferroviarie che attraversa il paese da est a ovest, dal Mar Nero al confine con l'Ungheria. Al contempo, lo stesso fondo di coesione ha finanziato la costruzione da zero di un'autostrada tra la città di Sibiu e Pitesti con 875 milioni di euro. E nel settembre 2021-2027? È presto per dirlo, perché ancora siamo all'interno di questo settennio, bisogna vedere quale sarà il trend. In questo ciclo di bilancio dell'Unione Europea però ha stanziato una serie di finanziamenti, ma molte sovvenzioni devono ancora essere erogate e non è detto che tutti i fondi allocati siano poi effettivamente utilizzati. Attraverso la CEF, che quindi è la Connect Europe Facility, l'Unione Europea ha stanziato 25,8 miliardi di euro per il trasporto sostenibile, mentre il Fondo di Coesione e l'FSR intendono supportare la costruzione di 3.900 km di nuove ferrovie con un investimento di 10,7 miliardi di euro. Altri 18 miliardi sono stati destinati alla mobilità urbana sostenibile. Che poi cosa voglio dire bene, non lo so. Nello stesso report della Commissione Europea, dove sono riportati questi numeri, si confermano anche gli investimenti nelle strade, che però non vengono quantificate attualmente, quindi non si sa se questo squilibrio ci sarà ancora, sarà assottigliato, superato, non si sa, perché non ci sono dati fisici, non sono stati erogati, non si sa bene. Si è detto che si metteranno. Ai fondi di qui sopra si aggiungono poi gli investimenti inclusi nel Next Generation Europe, il programma per la ripresa economica lanciato dalla Commissione Europea dopo il Covid, che ha anch'esso un chiaro indirizzo green, però anche qui bisognerà vedere. In tutto ciò le ferrovie sono un qualcosa di particolare. Abbiamo parlato per esempio all'Euro dei Balcani delle ferrovie serbe, che non è Europa, va bene, o non ancora, vedremo. Io sono molto scettico. Non è Unione Europea, non quantomeno. È Unione Europea. Lì, per esempio, la rete ferroviaria che è stata ampliata per esempio dalla Cina. Quindi ci sono degli investimenti, e ne è anche proprietaria, tra l'altro. Cioè lei l'ha pagato, lei l'ha costruito, voi lo usate, però la proprietà è rimasta alla Cina. Quindi la questione ferroviaria diventa qualcosa di molto importante, anche all'interno della scacchiera geopolitica, perché per costruire queste infrastrutture ci vogliono soldi, tanti soldi. Certo, e poi ci sono gli interessi di chi questi soldi anche ce li mette, perché immaginiamo che non lo facciano certo per spirito filantropico, soprattutto le grandi multinazionali estere, ma ci sia una volontà di ritorno, come l'interesse verso i porti italiani e così via, insomma, sta dimostrando, no? Cosa interessante sulle ferrovie, e qui concludiamo la notizia, è la Spagna, no Mario? Che ha delle ferrovie più strette, perché derivanti dal periodo franchista, che installò forzatamente delle rotaie più corte per impedire l'arrivo di treni e di attacchi dall'esterno. Ma penso, non lo sapevo. Che sono rimasti in una lunga parte della Spagna, e quindi devono cambiare i treni proprio, cioè... Si fermano i treni, si cambia treno al confine perché ci sono le rotaie. Come succede al confine fra Ucraina e Russia? Bravo. La stessa cosa. Sì. È la stessa cosa, esatto. Però, nel senso, questo è un paese europeo all'interno dell'Europa e tutt'oggi continua ad esserci questa cosa. Giustamente, probabilmente non si sono messi a cambiarle tutte, però... Non si è considerato economico farlo, perché poi è sempre questo che guida scelte, certo. Assolutamente. La povera Spagna è stata lasciata ai margini delle Commissioni Europee, tra l'altro... della Francia va bene, ma alla Spagna un po' ci dispiace. Niente, quindi questo era questo era un po' per raccontarvi quali sono gli indirizzi europei per quanto riguarda la rete ferroviaria e perché quando ci sono le lotte come la TAV non si vince, nel senso che continuano a portarle avanti per come bene superiore, anche se poi l'evidenza dice che soprattutto per la nostra è piuttosto inutile. Ci sarebbero delle alternative molto migliori, molto più green. Sì. Si capisce, però invece ci sono in ballo tanti soldi proprio sull'alta velocità. Però i treni sono una cosa meravigliosa che passano i confini, ma in realtà purtroppo i confini non sono così liberi, non sono così aperti, anzi sono sempre più chiusi, ci sono sempre più muri e reti e controlli. Vi segnalo per esempio che non so se tutti lo sanno, ma il confine con la Slovenia, con l'Italia e poi dalla Slovenia con gli altri, quest'estate, come l'estate scorsa, è stato chiuso. Non chiuso e non si può passare, chiuso e ci sono i controlli. La Slovenia farebbe parte dell'Europa, quindi perché ci sono questi controlli? Stiamo tornando indietro. Si è riportato anche in Italia l'idea di rimettere i controlli ai confini. In Europa sta tornando questa idea. Invece di crescere, di evolverci, invece... si sta tornando indietro e questo è un peccato. Sì, sì, ma io stesso ricordo che prima del Covid al confine fra la Slovenia e la Croazia, passandovi in auto, subì i controlli in Slovenia, malgrado entrambi facciano parte dell'Unione Europea e del Trattato di Schengen. Per esatto, esempio. È proprio una sospensione temporanea del Trattato di Schengen, proprio legale dal punto di vista formale. Però noi andiamo bellamente in macchina quando vogliamo andare in vacanza, ci spostiamo, però ci sono invece tante persone che si spostano perché scappano da guerra, da fame, da mille cose, tutte lecite tutto sommato. I loro spostamenti, dici, certo. E come sappiamo, spesso abbiamo parlato della rotta balcanica, che è quella più battuta, oltre a quella via mare, dal Nord Africa qui. E lì invece si va a piedi e si attraversa i confini. E spesso e volentieri, ahimè, si finisce anche in mezzo alle maglie dello sfruttamento. Ah, però ho sbagliato. Eccolo qua. No, mi sembra tutto giusto invece quello che hai detto. Sì, sì, no, è giusto, ma avevo sbagliato l'articolo. Aver aperto l'articolo. La rotta balcanica passa per tanti parti, buona parte dei Balcani, passa tanto, ne abbiamo parlato spesso, soprattutto per la violenza delle guardie di frontiera in tanti paesi che ci sono lungo quel confine. Però nel mezzo c'è un paese che per forza di cose è un imbuto importante del passaggio di persone, che è la Bosnia Erzegovina. Bosnia Erzegovina, paese tutt'oggi traballante, uscito fuori, no? Come molti di voi sapranno, dallo scioglimento dell'ex Jugoslavia, tutto ciò che rimane dell'ex Jugoslavia, gli altri paesi hanno trovato, Serbia, eccetera, eccetera, hanno trovato una loro indipendenza. La Bosnia Erzegovina invece è stata racchiusa dentro questo nome e, come sapete, però all'interno ha varie anime che si contrappongono fra di loro. E parleremo fra poco un pochino meglio, approfondiremo, certo, con aggiornamenti dell'attualità. Però, essendo un paese di mezzo, una terra di mezzo, ci passano tanti migranti. E purtroppo lo sfruttamento del lavoro è un fenomeno insidioso che spesso e volentieri va a cogliere proprio i migranti che passano da lì. C'è un interessante rapporto pubblicato dalla rete Global Initiative Against Transnational Organization Crime, che ora chiameremo GTOC perché è troppo lungo. Sono d'accordo. Intitolato Forced to Work, Labor Exploitation in the Western Balkans. Questa pubblicazione evidenzia come il fenomeno dello sfruttamento sul lavoro stia diventando sempre più diffuso e preoccupante in tutti i Balcani occidentali. Gli autori dello studio, in collaborazione con alcune organizzazioni della società civile della regione, hanno analizzato le dinamiche dello sfruttamento del lavoro in Albania, Bosnia e Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia. Belli in fila, passaggio sicuro di molti migranti, non solo da lì, ma una grande fetta passa proprio da questi paesi qua. Anche obbligato spesso, quindi. Sì, anche perché ci sono dei muri in molti paesi che hanno costruito. Qua invece li trovi più cioè riesci a passare un pochino più facilmente, probabilmente perché sono paesi anche più poveri e quindi hanno meno capacità di controllo. Ai fini della ricerca qualitativa sono state condotte 111 interviste con membri del mondo accademico, delle forze dell'ordine, amministrazioni locali e organizzazioni internazionali, tra cui 38 persone vittime o a rischio di sfruttamento lavorativo. Lo studio si basa anche su dati quantitativi diffusi dall'iniziativa regionale per le migrazioni, l'asilo e i rifugiati, e su quelli emersi dall'ultimo rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti sulla tratta degli esseri umani. Tratta degli esseri umani, che quando parliamo di tratta degli esseri umani noi pensiamo principalmente a donne che vengono prese per la prostituzione. Non è solo questo, no? La tratta dell'uomo è anche tratta di lavoratori. Abbiamo parlato a un certo punto all'Uro dei Balcani dei lavoratori sfruttati in Azerbaigian. Anche Azerbaigian. Comunque, insomma, gente che viene presa, montata su un camion dicendo ti si porta a lavorare in un posto buono, ti portano, ti chiudono dentro le case, delle case, ti fanno uscire per andare a lavorare e torni e basta. Lavori 18 ore per niente, non ti danno i soldi, te li danno dopo e inizia tutta una serie di ricatti. Quindi è anche lavorativo. La tratta degli esseri umani passa anche dal lavoro, purtroppo. I Balcani occidentali, come si legge nello studio della GITO, sono allo stesso tempo il luogo di origine, transito e destinazione delle vittime di sfruttamento lavorativo. Molto interessante questa affermazione, sì. Ve la ridico. I Balcani occidentali sono allo stesso tempo il luogo di origine, transito e destinazione delle vittime di sfruttamento lavorativo. Il fenomeno si manifesta sotto molteplici forme, compreso il lavoro sottopagato con orari estenuanti, spesso svolto in condizioni pericolose. Bene, anche qui è così, siamo balcanici assolutamente. Pur interessando maggiormente l'edilizia, lo sfruttamento è diffuso anche nel settore tessile e in quello turistico alberghiero. Cioè, noi, comunque anche qui è così. Come no? Secondo il rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti sulla tratta di esseri umani, però purtroppo si tocca punte ben peggiori, dopo un calo nel 2022 nei Balcani occidentali, nel 2023 si è nuovamente registrato un aumento del numero di vittime di sfruttamento lavorativo. Nel periodo compreso tra il 2018 e il 2023, il 46% dei casi di traffico di esseri umani nella regione ha riguardato lo sfruttamento del lavoro. I dati dimostrano che nel periodo in questione il numero più alto di vittime si è registrato in Albania e Bosnia Erzegovina. Nel 2022 i casi registrati nei due paesi hanno rappresentato oltre il 60% di tutti i casi nella regione. Va però sottolineato che il fenomeno è largamente sottostimato, tanto che il numero effettivo di vittime potrebbe essere da 10 a 20 volte superiore a quello ufficiale. Secondo uno studio realizzato dalla rete Marri, nel periodo 2018-2022 l'accattonaggio forzato è stata la forma più diffusa di traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo, circa il 27% di tutti i casi registrati nella regione. Nel rapporto della GITOC si analizzano alcuni casi concreti, spiegando come i meccanismi di sfruttamento lavorativo vengono messi in pratica. Uno dei casi più estremi di cui abbiamo, insomma, di cui potete trovare informazioni su balcanicaucaso.org, questo articolo si titola «Dopo una breve fase di miglioramento nei Balcani occidentali, il fenomeno dello sfruttamento del lavoro si sta nuovamente acuendo». Trovate qui diversi link proprio anche a questi a questi rapporti di cui vi stiamo parlando. Trovate proprio i link, molti sono in inglese, accollatevela, leggervela in inglese. Uno dei casi più estremi, dicevamo, è quello dell'azienda Linglong International Europe SRL, con sede a Zrenjanin, filiale della cinese Shandong Linglong Tire. I lavoratori vietnamiti impiegati dall'azienda nella costruzione di una fabbrica di pneumatici a Zrenjanin, all'arrivo in Serbia hanno dovuto consegnare i loro passaporti al datore di lavoro per poi essere costretti a lavorare a turni estenuanti con paghe misere e a vivere in ambienti angusti e malsani, diventando vittime di attacchi fisici e verbali. Casi come questi hanno spinto le autorità statunitensi a inserire la Serbia nel cosiddetto Tier 2 Watch List, contestando che il governo di Belgrado non soddisfa pienamente gli standard minimi per contrastare la tratta degli esseri umani. Tra gli altri casi evidenziati nel rapporto spicca quello dei lavoratori turchi sfruttati in Montenegro nel 2023 e quello dei cittadini di Taiwan che nel 2021 sono stati costretti a commettere frodi online in Macedonia del Nord e Montenegro e ad effettuare chiamate fraudolente informando le vittime in Cina di multe fittizie. In Bosnia e Erzegovina alcuni lavoratori edili hanno denunciato le condizioni pericolose in cui sono stati costretti a lavorare. Dalla ricerca della GITOC emerge chiaramente la necessità di porre maggiore attenzione al persistente fenomeno dello sfruttamento del lavoro nei Balcani occidentali, fenomeno che, oltre ai migranti, coinvolge anche i lavoratori autoctoni e richiede un'azione immediata. Per contrastare con efficacia lo sfruttamento lavorativo occorre costruire reti di cooperazione tra la società civile e le autorità locali e nazionali. Preciso. È inoltre necessario sensibilizzare l'opinione pubblica, migliorare la raccolta dei dati e rafforzare i meccanismi di sostegno alle vittime. E vuoi aggiungere qualcosa? No, quello che cerchiamo di fare è proprio questo, sensibilizzare attraverso puntate come questa, l'Urlo dei Balcani, altre trasmissioni che qui e sulle nostre altre radio sorelle vanno in onda. No, volevo aggiungere, se sia il momento, il fatto della Commissione europea. È esattamente il momento giusto. Perché infatti proprio pochi giorni fa, 3 giorni fa, è stata annunciata la nuova Commissione, l'organico della nuova Commissione europea da parte di Ursula von der Leyen. E ho cercato un pochino, insomma, che cosa c'era là dentro e in particolare a chi era stata affidato la questione della migrazione. E con sorpresa non c'è molto in realtà da dire, ma quel poco lo dico adesso, è stata affidata a Magnus Brunner all'Austria. All'Austria, ragazzi. Sì, ma infatti con grande sorpresa, questa cosa non era attesa anche perché Magnus Brunner era il ministro delle finanze del governo di destra austriaco, quindi una provenienza finanziaria davvero inaspettato. Tuttavia l'Austria è significativo che proprio all'Austria, in particolare a Brunner che fa parte del Partito Popolare Europeo, quindi malgrado di destra è pure visto un po' come moderato, sì, perché relativamente si pone di là c'è nazisti. E quindi proprio all'Austria è stato affidato il compito di occuparsi della migrazione. Ed è singolare questo perché proprio l'Austria era stata condannata dalla Corte di Giustizia Europea per aver esteso in modo illegittimo i controlli alle frontiere, come sappiamo, per aver chiesto che i fondi comuni europei fossero destinati, utilizzati per creare nuove recinzioni, di cui abbiamo anche accennato, e anche per aver bloccato, insomma, osteggiato l'ingresso di Romania e Bulgaria nello spazio Schengen. Vero, sì. Quindi tutto questo, fra l'altro Ursula von der Leyen è stato significativo, questo è davvero un po' un segno dei tempi secondo me, come si sia spostata a destra, non voglio dire, il dibattito sull'immigrazione irregolare, anche perché Ursula von der Leyen ha dichiarato nel report col quale annuncia quali sono i membri, insomma, del governo europeo, che la volontà è quella di esplorare nuovi modi per contrastare l'immigrazione irregolare. Questi nuovi modi, che altrove, sempre nello stesso report, sono definiti soluzioni innovative. E questo direi che non ci lascia per niente ben sperare. Sappiamo cosa significa questo, nuove tendenze di chiusura. Sì. Sì, perché l'innovazione non è dire vai, allora vediamo un'integrazione diversa, cerchiamo, no, no. Esatto, cioè, sì, sì, nuovi modi di respingere e bloccare, cioè, nuove retoriche da trovare. Spingiamo col motoscafo, cioè, certo, l'innovazione sta lì. Nuove retoriche, come stiamo vedendo anche in Germania, bravo, cosa sta accadendo con la crescita della destra e gli argomenti che stanno adoperando, insomma. Ma lo stesso Scholz sta cambiando da questo punto di vista, anche perché se no sì, alla sì, fine sì. Dichiarazioni prorompenti verso destra sempre di più, certo, nel tentativo di inseguire un consenso pubblico che gli sfugge proprio su questi temi, ma è mal comune veramente per sì, tutti. Sì, sì, poi non credevamo in lui per salvare l'Europa, figuriamoci. Decisamente no, però, decisamente no. Purtroppo ci stiamo andando in una direzione che non ci piace molto, devo dire, ma di tutto il mondo in generale. Molto interessante questa cosa, e è sempre bene guardare un po' cosa sta succedendo a livello europeo, perché poi comunque poi ora siamo in un momento globale importante, la questione di Draghi, no? che ha detto oh regà, bisogna spostare i finanziamenti qui, bisogna comprare tante armi per i miei ascoltatori e loro dei Balcani. Economia di guerra dell'Europa, io lo dico da sì, no, sì, vabbè, sì. No, non sono nessuno, lo dicono tanti analisti, no? Tu approfondisci molto, e quindi anzi approfitto io per invitare all'ascolto dell'Urlo dei Balcani su Radio Wombat, che di questi temi sempre parla. Grazie, e quindi così andiamo avanti, però rimanendo sulla Bosnia e Erzegovina, perché vorrei parlare invece proprio di migranti. Abbiamo parlato del rischio che anche i migranti, ma non solo, anzi molto spesso anche i lavoratori autoctoni hanno di sfruttamento, però in tutto ciò i migranti ci sono, beh, passano, ma come stanno? C'è un interessante articolo, sempre su Balcani Caucaso: mentre la Bosnia e Erzegovina si prepara ad assumere maggiori responsabilità nella gestione delle migrazioni, una delle principali sfide resta quella di garantire ai migranti un'accoglienza adeguata e dignitosa. Molto interessante. Dopo anni in cui la gestione dei flussi migratori in Bosnia è stato, dirò solo Bosnia e non Bosnia e Erzegovina, sì, perché tutte le volte poi mi impappino. Concesso. Bosnia, poi non sarebbe proprio correttissimo, ma dirò Bosnia, grazie. È stato affidato principalmente all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, l'OIM. Le autorità bosniache si apprestano ad assumere un ruolo più attivo nelle politiche migratorie per allinearsi agli standard europei e adempiere agli impegni che la Bosnia come paese candidato all'adesione all'Unione Europea. Infatti, lì, proprio in quella zona, di questi paesi che abbiamo citato, sono tutti paesi che o sono già hanno già iniziato l'iter o cercano di iniziare l'iter per entrare all'interno dell'Unione Europea. La Bosnia è uno di questi. Nonostante le rassicurazioni dell'OIM e dell'Unione Europea, secondo cui la situazione migratoria in Bosnia e Erzegovina sarebbe stabile, negli ultimi anni sono emerse alcune criticità riguardanti l'accoglienza dei migranti nel paese, criticità che hanno portato alla creazione di campi informali, provocando tensioni e polemiche sull'operato dell'OIM nel paese. Ho parlato a un certo punto in una puntata, c'era proprio un'intervista a questa gente che dorme in stazioni abbandonate, questi dormivano in dei silos di grano vuoti da tempo e subivano fondamentalmente attacchi continui questo non era in Bosnia, non so, me lo ricordo più dove era, se era Bosnia o se era, non era Serbia. No, era Bosnia. E sì, certo che era Bosnia. E la gente di lì, chiaramente gli abitanti, quando ti trovi in un paesino di 60 anime, 200 persone all'interno di cose, è chiaro che non sei tranquillo, lo capisco. È per questo che ci vuole qualcuno che gestisca queste cose, non le lasci in mano al niente. Pur offrendo ai migranti una maggiore libertà rispetto ai centri di accoglienza ufficiali, stiamo parlando di quelli informali, anche i campi informali sono stati spesso criticati per le condizioni igienico-sanitarie inadeguate, diventando teatro di scontri e violazioni dei diritti umani. Nonostante queste criticità, più di metà dei migranti che attraversano la Bosnia e Erzegovina cercano il riparo in queste strutture, nelle strutture esistenti, ancora definite di accoglienza temporanea. A confermarlo un recente rapporto realizzato dall'OIM sulla base delle interviste con 822 migranti, condotte nel giugno 2024 nei paesi balcanici occidentali. Dalla ricerca è emerso che il 75% dei migranti intervistati in Bosnia transita nei centri di accoglienza, sebbene risulti che ci restino per una media di 35 giorni per poi proseguire il viaggio. Dal medesimo rapporto emerge inoltre che il 46% dei migranti che arrivano nei paesi balcanici trovano un alloggio o un luogo di riparo, trovare un alloggio o un luogo di riparo è una delle esigenze più pressanti durante il viaggio lungo la rotta balcanica. E questo è chiaro, è chiaro. In un suo saggio uscito sul Journal of Public and International Affairs, edito dall'Università di Princeton, la ricercatrice Rio Otsuka sottolinea che la Bosnia dovrebbe riconoscere la difficoltà nel garantire le condizioni di vita nei centri di accoglienza che soddisfino gli standard internazionali e implementare politiche per affrontare queste difficoltà in continuo coordinamento con organizzazioni internazionali e non governative. Dice, fondamentalmente non è vero che la situazione è stabile e tranquilla, anzi bisognerebbe intervenire. Se la Bosnia intende assumersi maggiore responsabilità nella gestione a fronte di un ritorno economico e poi di entrata all'interno dell'Unione Europea, cioè l'Europa dice, oh Bosnia, occupati di più che noi, ti si fa entrare più velocemente. E la Bosnia dice, certo, c'è problema. E invece problemi ci sono. In Bosnia, come nella maggior parte dei paesi dei Balcani occidentali, un primo aumento degli arrivi di migranti si era registrato nel 2015, con il grande esodo dalla Turchia verso i paesi del nord Europa, cresciuto poi nel 2016 fino ad arrivare al picco del 2019 con 29.124 arrivi. Vi ricordate? Turchia, cancelli pieni di migranti che non passano, la Turchia dice, oh Europa, noi facciamo il cazzo che vogliamo, soprattutto in Siria del Nord, se no s'apre cancelli. Ma insomma, s'apre cancelli. Ecco, queste sono le grandi ondate arrivate proprio anche da quei cancelli aperti. Sì, sì, armi ricattatori a fronte di soldoni dati dall'Unione Europea perché se li tengano dentro i loro confini i turchi e non li facciano, mi pare, 3 miliardi all'anno, una cifra del genere, comunque cifre imponenti. Importanti. Però. Il tutto avvenuto al confine con la Grecia, i greci che non ne possono più e che sono lì che vogliono fare la guerra, non solo per quello, ma sappiamo anche per diversi giacimenti presenti lì nell'Egeo, molto vicino alle coste turche, per cui è quasi scoppiato un conflitto, poi non è scoppiato, ma insomma è comunque una fra Grecia e Turchia c'è una frizione continua che insomma comunque non ci fa stare tranquilli. È vero che sono tutte e due Europa, ma la Turchia c'ha un piede in due staffe, oggettivamente. Come no? Anzi, nelle sue staffe basta. dopo un calo costante fino al 2022 e nel 2023, il numero è nuovamente salito, raggiungendo 34.409 arrivi tra transitanti e rifugiati rimasti accolti nei centri, come emerge dal report dell'OIM del gennaio 2024. Di fronte all'aumento del flusso di migranti, le istituzioni bosniache si sono dimostrate incapaci di affrontare la situazione in modo adeguato e quindi nel 2018 l'accoglienza dei migranti è stata affidata all'OIM. Con il passare del tempo, come potete trovarlo tra l'altro in interessanti articoli della rete Rivolti ai Balcani, R maiuscola I, V maiuscola, quindi Rivolti ai Balcani, il meccanismo è diventato sempre più complesso, farraginoso e difficile da gestire. Nonostante l'elevato afflusso di migranti in Bosnia, solo nel 2020 vi sono transitate 70.000 persone. Il numero di posti letto disponibili nei cosiddetti centri di accoglienza temporanei e campi provvisori, sai quanti sono? 8.000! Come scriveva Al Jazeera Balkans, delle migliaia di migranti presenti nel 2020 in Bosnia, un quarto dormiva in edifici abbandonati oppure all'abbiaccio nei boschi e ai bordi delle strade, concentrati nel cantone di Unasana, che era quello che ti stavo raccontando prima, era proprio il cantone di Unasana, vicino al confine con la Croazia, confine blindatissimo, con le guardie cattivissime, quando passi ti pestano male, ti ributtano indietro, ti spaccano il cellulare, che come sappiamo è l'unica fonte di contatto con chi resta a casa, certo, o dove devi arrivare, quindi è fondamentale, anche chi passa la tratta via mare, spesso noi visto li mettono dentro i preservativi, perché il preservativo è perfettamente, non passa, lo chiudi bene, ciao. Perché è un bene fondamentale. Anche perché se passasse sarebbe un casino, in effetti. Sì, hai ragione anche te. Hai ragione anche te. La tendenza dei migranti a concentrarsi nei pressi del confine bosniaco-croato nella speranza di entrare nell'Unione Europea aveva portato alla creazione di campi improvvisati in luoghi come Bihać e Velika Kladuša. Secondo quanto riportato da Associated Press nel 2021, il rifugio sorto nei pressi di Velika Kladuša non era altro che un accampamento fatto di pali e teli di nylon, senza acqua corrente, bagni, docce e elettricità. Non che uno voglia stare in un resort di lusso, però la base. Testimonianze analoghe sono state raccolte nel 2019 nel campo di Vucac, nei pressi di Bihać, allestito su un ex discarica dove le pessime condizioni igienico-sanitarie hanno provocato la diffusione di malattie come scabbia, pidocchi ed epatite. Nonostante il costante deteriorarsi della situazione, i cittadini bosniaco-erzegovesi hanno fatto il possibile per sostenere i migranti, perché va detto che il governo fa casino, ma la popolazione bosniaca, soprattutto nella parte bosniaca, probabilmente in virtù del fatto che la guerra in Jugoslavia se la sono presa parecchio in faccia loro, c'è una grande, grande, grande solidarietà, nonostante questa cosa duri da un decennio quasi. Quindi poi si condanna i governi, ma la certo, popolazione... Certo, questo è sempre importante ricordarlo, come i governi non sono il popolo che governano, ecco. Certo. C'è un po' da fare. Appunto, hanno fatto il possibile per sostenere i migranti, tra l'altro, insomma, popolazione molto povera, quindi... doppiamente di valore. A Velika Kladuša la popolazione locale e i volontari internazionali fornivano alloggi, i parrucchieri offrivano tagli di capelli e i ristoranti distribuivano passi gratuiti alle persone in transito. Alla fine sia il campo di Vucak che quello di Velika Kladuša sono stati sgomberati, chiaramente. Nel 2020 l'Unione Europea ha finanziato la costruzione di un campo di emergenza all'IPA, a 30 km da Bihać, gestito dall'OIM, con l'obiettivo di intercettare i migranti che vivevano per strada e trasferirli qui, anche contro la loro volontà. Il campo di LIPA è arrivato ad ospitare oltre 1000 persone ed era, come si legge in un rapporto pubblicato dalla Transnational Institute, privo di servizi igienici, freddo, pericoloso, con cibo scadente e, a seguito di un incendio nel dicembre 2021, parlai anche di questo, è stato costruito, ricostruito e in parte trasformato in un centro di detenzione. Cioè, a un certo punto è preso fuoco tutto, ma era inverno, tipo. Mm. Per cui, cioè, poi dopo te sei fuori sotto la neve, non è che c'hai altre possibilità. Attualmente in Bosnia ci sono 4 centri di accoglienza per migranti. Borici, LIPA, appunto, Blazuj e Uzivak. Il processo di trasferimento delle responsabilità della loro gestione alle autorità locali è avvenuto nel campo di Lipa e di Blazuj, mentre per gli altri due campi è ancora in corso il trasferimento all'OIM, all'ufficio, da OIM all'ufficio per gli stranieri. Se è vero, come sostiene Rio Tsuka nella sua analisi che dicevamo all'inizio, che le autorità della Bosnia hanno la capacità di gestire la situazione migratoria in modo adeguato, è anche vero che la grande sfida resta quella di fornire ai migranti richiedenti asilo e protezione internazionale un'accoglienza migliore e in linea con gli standard internazionali, come prescritto dalle leggi in vigore nel paese. La legge sull'asilo, peraltro bisognosa di una riforma perché risale al 2006, e la legge sugli stranieri, i cui aggiornamenti sono entrati in vigore a settembre 2023. Questa è la legislatura bosniaca, che quindi andrebbe rivista e aggiornata, perché è molto faraginosa, appunto, perché poi questi campi, anche solo per passare dall'OIM al rifugio per gli stranieri, passano anni, e nel mentre chi li gestisce? Come arrivano i soldi e tutto? In questi buchi, come si dice... burocratici, poi a risentirne chiaramente è il migrante e anche gli operatori, possiamo dire, anche gli operatori, quelli che insomma, come si definiscono, volontari, sì. Diciamo, certo, perché anche loro vivono in condizioni chiaramente lì, ma soprattutto in molte situazioni, per esempio in Croazia ci sono state diverse questioni, vengono proprio minacciati fisicamente con la pistola, di dire andate via, vai. Quindi insomma, brutta storia, brutta storia. Allora, senti, ma secondo te abbiamo il tempo di parlare anche dell'aggiornamento sulla Bosnia o andiamo oltre? Secondo me, visto che hai parlato di Croazia, io coglierei il destro per mettere un brevissimo stacco musicale. Sì, che dai, ne dici? Quello sì, perché io così... Ma proprio breve, visto che hai parlato di Croazia, io vorrei far sentire un gruppo croato questa volta che mi hanno consigliato dei compagni quando sono stato in Croazia qualche anno fa, si chiamano i Gustafi. Bellissimo. Ho scelto una canzone breve, ma è interessante magari soltanto dire che questo gruppo canta, scrive i suoi testi non in serbo-croato, bensì nel dialetto Chakavian, me lo sono scritto, Chakavian. Okay. Un dialetto che si parla in Istria, in Dalmazia, in alcuni territori del nord della Croazia, a confine con la Slovenia, è poco diffuso, ha pochi parlanti e tuttavia loro... Anche insomma, perché quelle sono terre di esodati, per cui... fra l'altro. E allora io vi farei sentire questa canzone dei Gustafi che si intitola Cirna Zaba. E ritorniamo fra pochissimo qui per il Ponte Radio con me e Mario, soprattutto il buon Tuco. E intanto scaldiamo l'ugola per i prossimi argomenti. A fra pochissimo, Gustafi. Wombat! Sì, sì, ci sono, via! Moja mala za novita ti da usrati chi je ne pozna. Ma hoj, hoj, hoj, mama, hoj, hoj, hoj, samo nikad više nazad nemoj duj. Hoj, hoj, hoj, mama, hoj, hoj, hoj, samo nikad više nazad nemoj duj. Bolje žaba nego baba, bare nima duše. Hoj, hoj, hoj, mama, hoj, hoj, hoj, samo nikad više nazad nemoj duj. Hoj, hoj, hoj, mama, hoj, hoj, hoj, samo nikad više nazad nemoj duj. Hoj, hoj, hoj, mama, hoj, hoj, hoj, samo nikad više nazad nemoj duj. Hoj, hoj, hoj, mala, hoj, hoj, hoj, samo nikad više nazad nemoj doj. Sto facendo un disastro in regia, Montuco. Salva tu la baracca, per benvenuti favore. Benvenuti a Fuoco alle polveri. Ale. Allora, stavamo parlando appunto, abbiamo parlato di migranti, abbiamo parlato soprattutto vedendoli dal punto di vista della Bosnia, e l'ultima parte parlavamo della, diciamo, dell'accoglienza in Bosnia da parte della Bosnia dei migranti. Sinteticamente errato, ma secondo me avete compreso quello che stavo dicendo. Sì, io sì. Ecco, perfetto. Vi avevo promesso poco fa, mentiroso, un approfondimento appunto sulla situazione instabile degli equilibri di potere in Bosnia e Herzegovina. Abbiamo presentato un gruppo croato, appunto, abbiamo detto, e la componente croata, serbo-croata, ha un fattore più particolarmente importante negli squilibri di potere in Bosnia e Herzegovina. Non abbiamo tempo, ahimè, quindi vi rimando alla lettura di Bosnia e Herzegovina verso nuovi equilibri di potere, punto interrogativo, sempre su osservatorio e balcanicaos.org, oppure sentire l'Uro dei Balcani su Radio Wombat o su Radio Onda Rossa la domenica. Andiamo però ora a parlare di qualcosa di interessante, cioè chiaramente i paesi che nel mentre vogliono entrare in Europa, cercano di entrare in Europa pur mantenendo piedi in due staffe come la Serbia, o invece belli improntati a tutto a dritto con l'Albania e pur di andare a dritto si fa di tutto e di più, o la Macedonia nel nord che fu costretta a cambiare nome, ne abbiamo parlato anche sulle frequenze Wombat, appunto, da Repubblica di Macedonia a Macedonia nel nord, proprio perché la Grecia non voleva che la Macedonia, storica regione greca, rimanesse a loro come nome. Se no non levava nel veto alla malgrado penso sia oppure una parte di Bulgaria la sì, storica regione geografica, sì, certo, della Macedonia, e travalica anche nella Macedonia stessa, chiaramente, certo, ovviamente sì, sì. Infatti sono velleità stupide portate avanti soprattutto da militanti di Alba Dorata che fecero un sacco di casino, quindi... Sì, fra l'altro, ora così fra parentesi, senza rubare troppo tempo, è anche interessante vedere come nei libri di scuola questo viene proposto, cioè viene detto che per la Macedonia del Nord è un'occasione per entrare in Unione Europea e che il popolo macedone è stato ben contento di questa cosa. Ma non corrisponde assolutamente alla realtà, no, nell'una o nell'altra affermazione. No, infatti quando vai a analizzare i voti sono i giovani che hanno votato perché hanno voglia di entrare in Europa, ma in realtà tutta la componente anziana, diciamola così, avanti con l'età, aveva votato no, o sì, non era proprio andata a votare. Comunque, nel mentre questi paesi... Anche quella religiosa sarebbe, scusami, interessante andare a vedere. Vai, se vai. Immagino che la componente musulmana, mi pare di ricordare che fosse fortemente contraria al cambio di nome. Ma vedi? No, questa parte mi manca. Non sono nemmeno sicuro, l'ho detta con incertezza. Nel mentre però dicevo, questi paesi non è che stanno fermi lì, ma cercano di trovare delle soluzioni alternative. Per esempio l'iniziativa Open Balkan, promossa da Serbia, Albania e Macedonia del Nord, si prefiggeva, parliamo al passato, di creare un mercato comune regionale per permettere la libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone per via. fra parentesi, ecco. I motivi, però insomma, però è fallita. Fondamentalmente è purtroppo è fallita. L'iniziativa, nota anche come mini Schengen, proprio con rimando proprio all'Europa, è nata come un progetto di cooperazione regionale tra tre paesi dei Balcani occidentali, cioè l'Albania, Macedonia del Nord e Serbia. Di fronte allo stallo del processo di allargamento, i leader dei paesi dei Balcani occidentali, non riuscendo a mantenere le promesse di un futuro europeo fatti ai cittadini, si sono trovati a dover affrontare una situazione particolare. La prospettiva europea delle regioni, seppur non del tutto perduta, appariva decisamente ridimensionata dalle affermazioni dei più alti funzionari dell'Unione Europea, secondo cui l'Unione doveva riformarsi prima di accettare nuovi membri. Quindi quando i funzionari europei hanno detto bisogna riformarsi prima di accettare qualcun altro, gli è presa male. Già di base gli era presa male, perché i governi di questi paesi tendenzialmente poi in realtà non hanno fatto abbastanza libertà di stampa, che per esempio Serbia e Albania in situazioni tragiche, ma anche libertà personali, insomma c'è tanto da lavorare, non perché io sia per che gli europei siano civili e bravi, però oggettivamente c'è da lavorare al di là delle richieste dell'Europa. Dopo lo stop all'allargamento, che è stato annunciato nel 2014 dall'allora presidente della Commissione Europea, te lo ricordi, Jean-Claude Juncker? Bien sûr. Ah, bien sûr. Ai Balcani occidentali è stato offerto un premio di come? No, nulla. Offerto un premio di consolazione, il cosiddetto processo di Berlino. Cioè un'iniziativa di cooperazione regionale promossa dalla Germania. Fondamentalmente la Germania si è messa a fare degli accordi particolarmente vantaggiosi con i paesi della zona. Si è trattato dell'ennesimo trasferimento di responsabilità, un progetto di cooperazione ideato all'interno dell'Unione Europea e poi affidato ai Balcani occidentali, che lo dovevano implementare e sviluppare ulteriormente. Open Balkan voleva essere l'esatto contrario, cioè un progetto autoctono sviluppato dai leader dei Balcani occidentali, desiderosi di mostrarsi capaci di promuovere la cooperazione regionale. Cioè il processo di Berlino era la Germania che diceva vai, facciamo così così cos'ha, mettetelo in atto e a posto. Però quando tu da paese diverso con strutture sociali diverse imponi qualcosa a un altro paese e gli dici vai fallo da te, ci sta che non vada a buon fine. L'Open Balkans invece dice no, vai, partiamo da noi, partiamo perché sappiamo, ben via, però sappiamo come funziona e quindi lo mettiamo in campo. L'iniziativa è stata lanciata nell'ottobre del 2019 con una dichiarazione firmata a Novi Sad dai leader dei tre paesi coinvolti, a cui sono seguite altre due dichiarazioni congiunte firmate a Tirana e a Ohrid. L'idea era quella di creare un mercato comune simile a quello dell'Unione Europea per permettere la libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone. Le cosiddette quattro libertà. Ognuno dei paesi coinvolti ha percepito i possibili vantaggi dell'iniziativa a modo suo. Per esempio, l'Albania, l'apertura del confine con il Kosovo avrebbe permesso agli albanesi di entrambi i paesi di godere delle quattro libertà senza alcun vincolo. Ricordiamo il Kosovo, che ha una forte componente albanese e che si sente, diciamo, albanese in qualche modo. In realtà vorrebbe essere indipendente, però se deve tirare fra Serbia e Albania si sente più albanese. Anche perché sono meno i serbi all'interno del Kosovo. Esatto, all'interno del Kosovo. Sono al nord, c'è stato il problema delle targhe, insomma, delle amministrazioni sciolte e così via, ne hai parlato, eccetera. Esattamente, esattamente. Al nord c'è la parte serba, meno corposa, ma con dietro uno stato ben più potente. Sì. E quindi insomma è perché poi quelle zone sono ricche di energia per le questioni energetiche, quindi la Serbia le vorrebbe tanto, e di là c'è anche poi un orgoglio dato da una storico, diciamo, che sia giusto o meno, però è sentito. Sì. Quindi l'Albania avrebbe avuto da quel punto di vista alcune cose insomma favorevoli. Sì. La Serbia invece auspicava una distensione nei rapporti col Kosovo, in quella che avrebbe potuto essere vista come una normalizzazione informale delle relazioni tra i due paesi. Infine, la Macedonia del Nord, l'iniziativa avrebbe rappresentato un'occasione per riconquistare, riacquistare slancio politico nel contesto regionale, dopo che gli accordi di Prespa e il conseguente cambio di nome del paese, quello dicevamo poco fa, aveva lasciato l'amaro in bocca alla popolazione e alle elite politiche locali. Nonostante l'entusiasmo iniziale, oggi l'iniziativa Home Balkan sembra ormai giunta ad un punto morto. Le ragioni di questo fallimento sono molteplici. L'insuccesso è in parte legato alla struttura stessa del progetto, promosso principalmente dal presidente Vucic, il presidente serbo, e dal primo ministro albanese Edi Rama, quindi da due leader politici disposti ad appoggiare iniziative regionali solo se possono trarne beneficio dal punto di vista politico, della politica interna, poi tra l'altro, più che altro. Secondo Open Balkan non è mai riuscito a coinvolgere altri paesi della regione, come non so, il Montenegro, la Bosnia e lo stesso Kosovo, che sono rimasti scettici nei confronti dell'iniziativa e hanno preferito partecipare al processo di Berlino, che dicevamo prima. Terzo, i cambiamenti geopolitici provocati dall'aggressione russa all'Ucraina hanno spinto l'Unione Europea a fare un'inversione di marcia nella politica di allargamento. Vabbè, qui ci sarebbe un mondo di questioni sulle politiche dell'allargamento da discutere, soprattutto in relazione al conflitto in Ucraina. Leggevo che, per ricordare il numero, è che dal 2009 che la Serbia ha formalizzato la richiesta di ingresso nell'Unione Europea e è stata accettata come candidata al 2012. Sì. Quindi, sì. Insomma, si parla di... La Bosnia dal 2022, invece, ha formalizzato la richiesta di, sì, di entrata nell'Unione Europea. Nel marzo di quest'anno l'Unione Europea ha deciso di avviare i negoziati di adesione, esatto, come dicevi, con la Bosnia, qualche mese prima anche con la Moldavia e, sì, l'avvio dei negoziati infatti è di due anni successivo, certo, esatto, rispetto, bravo, alla richiesta di adesione, esatto, sì, sì, sì. E la Moldavia lo stesso ha avuto questa cosa, e anche l'Ucraina ha ricevuto il via libera, lo sappiamo, all'apertura dei negoziati, sì, sì, sì, chiaramente. Il rilancio del processo di allargamento ha fatto passare in secondo piano iniziative come Open Balkans, chiaramente concepite come un'alternativa, sì, però poi di fatto non messe in campo. Allo stesso tempo il rinnovato impegno politico dell'Unione Europea nei confronti dei Balcani occidentali ha riattualizzato la questione della cooperazione regionale. Il processo di integrazione europea non può prescindere dal dialogo e dalla ricerca di soluzioni ed alcune questioni con cui le società post-belliche, come quelle dell'ex Jugoslavia, inevitabilmente si confrontano. Una revisione del processo di Berlino, chiaramente finalizzata all'integrazione dei Balcani occidentali all'interno dell'Unione, potrebbe essere un buon punto di partenza. Fissando un traguardo preciso, il processo di Berlino riuscirebbe a trasformarsi dall'ennesima iniziativa paternalistica, che è quello che fa l'Europa tendenzialmente, ideata dai burocrati, da fuori, in un progetto abbracciato con entusiasmo dai paesi dei Balcani occidentali. Un segnale positivo in questa direzione c'è stato. Nel 2023 il summit annuale del processo di Berlino si è svolto a Tirana, a differenza degli anni precedenti in cui ad ospitare il vertice sono stati i paesi dell'Unione Europea. Pur essendo per lo più simbolico, questo cambiamento ricalca una delle poche idee che l'iniziativa Open Balkan è riuscita a promuovere con successo, quella di mettere in chiaro che si tratta di un progetto coerente con protagonisti gli attori locali e con al centro l'idea di mercato comune regionale ed europeo, cioè... Se non metti all'interno e li fai proprio agire ai protagonisti, ma gli cali dall'alto qualcosa, non può funzionare. Il pieno allineamento dei Balcani occidentali alla politica estera e di sicurezza comune dovrebbe essere un requisito imprescindibile per l'avanzamento della regione verso l'Unione Europea, evitando così che la Russia sfrutti le faglie interne alla regione. Qui ci riferiamo soprattutto alla Serbia che ha dei legami molto molto forti con la Russia, dal punto di vista anche proprio della difesa, e anche dal punto di vista, si senta cugini, culturale, linguistico, esatto, certo, culturale e linguistico. E quindi fondamentalmente in questo momento in cui ci stiamo di nuovo polarizzando, il mondo si polarizza, che poi non è una polarizzazione doppia, ma non è un bipolarismo, ma è quantomeno un tripolarismo, ma qui ci sarebbe tanto da discutere, sì. Però, insomma, chiaramente all'interno di questo movimento chi vuole entrare all'interno dell'Unione Europea deve accettare che poi, non dico che farà parte della NATO, ma comunque dovrà in qualche modo avere degli oneri dati dalla difesa europea comune. Anche questo è un tassello non poco, insomma, di rilievo. tale allineamento, perché tra l'altro non è solo economico ma anche una questione proprio politica e ideologica, tale allineamento si rende necessario nell'attuale fase di riordine globale, bla bla bla. L'attuale congiuntura geopolitica si è rivelata cruciale per il rinnovato impegno dell'Unione Europea nei confronti dei Balcani occidentali, che fondamentalmente l'Europa comincia ad avere un po' di paura di perdere il controllo di base sui vicini, e che possa essere poi controllato da qualcuno che è considerato come un nemico. Quindi la difesa europea poi va ripensata, insomma è un bel casino. Pur fallendo nel raggiungere la maggior parte degli obiettivi prefissati, Open Banking è riuscita in parte a colmare il vuoto politico e strategico creatosi come conseguenza della cosiddetta fatica di allargamento. Il premier Edi Rama, premier albanese, ha affermato che l'iniziativa Open Balkan ha raggiunto il suo scopo, inviando così un chiaro messaggio che l'Albania si sta focalizzando su altre priorità. Il futuro della cooperazione regionale nei Balcani occidentali passa da un chiaro progetto di integrazione europea, promosso da Bruxelles e privo di teatralità e giochi politici come quelli messi in atto dai leader balcanici durante l'esperimento Open Balkan. Quindi in realtà Edi Rama ha mostrato quanto in realtà non siano idonei a fare quello che vorrebbero fare. Ma va bene, nessuno di quei leader, devo dire. No, e a proposito di guerra incipiente Serbia e Balcani, mi sembra un elemento interessante il fatto che, se posso, Tuco, dire una cosa. Devi. La scorsa settimana era successo che il presidente Vučić della Serbia aveva annunciato la volontà di ripristinare la leva obbligatoria, e proprio oggi, proprio questo venerdì, è in discussione nel Parlamento serbo un emendamento di legge preparato dal Ministero della Difesa che vuole ripristinare la leva obbligatoria, la quale era stata annullata, insomma fatta venir meno nel 2010. Dovrebbe essere un servizio di leva della durata di 75 giorni, due mesi e mezzo. In particolare avevo preso un attimo un articolo qua su Infodifesa. Ah, bravo. Sì, io ti seguo per le fonti, infatti trovo cose molto interessanti dove dici di andare a leggere. E ho scoperto questo, che appunto avrà una durata di 75 giorni il nuovo servizio militare proposto, e che secondo il presidente non interromperà la vita, la scuola, lo studio o il lavoro dei giovani coscritti. Ha affermato il ministro Vučić i benefici di questa esperienza, affermando che le madri e i padri saranno fortemente grati perché l'esercito preparerà ancora meglio i loro figli alla vita, aiutandoli a crescere e a diventare uomini. Ecco, questo... era anche questo aspetto interessante, ora lo scorro molto velocemente. Questo aspetto delle competenze specifiche dei coscritti. Cercano particolarmente ragazzi con formazione in ingegneria elettrica, meccanica, e la volontà è quella di assegnare loro dei ruoli pertinenti. Infatti il primo ministro ha evidenziato l'importanza di queste competenze tecnologiche moderne dichiarando: avremo tanti giovani esperti nella guida dei droni, sono più letali con un drone che con un fucile. Inoltre, fra parentesi, è quasi divertente questa cosa, ha sottolineato che questa mossa non è un segnale di preparazione alla guerra, ma piuttosto un mezzo per garantire la pace attraverso un esercito più forte. Vabbè, certo. Si vis pace, parabellum, siamo ancora esattamente lì. Nel frattempo, comunque, anche la Croazia, proprio quest'estate, non eravamo in onda, ma ad agosto ha annunciato che sarà ripristinata la leva, insomma è stata varata la legge per la quale sarà ripristinata la leva obbligatoria. Durerà due mesi, e sarà in vigore da gennaio del 2025, anche in Croazia, quindi ritorna la leva obbligatoria. Fra parentesi, quest'estate è stata anche discussione per i paesi europei di più vecchia data e adesione. Assolutamente, noi compresi. Esatto. Chiaramente ci sono questioni di carattere economico quando si parla di leva, perché costa fare la leva, però in questi paesi, solo giovani uomini. Donne assolutamente no, e chiaramente quando tu fai la leva obbligatoria ti crei una sacca di riservisti che puoi richiamare in breve tempo in caso di conflitto. Quindi in realtà, al di là delle sue dichiarazioni, non fa mai sperare bene. No, decisamente, il vero ripristino. Direi proprio di no. Noi grazie a Dio l'abbiamo scampata, perché non sono capaci di gestire soldi per ora. Saremo a vedere. Ora non ce l'ho e non abbiamo tempo, ma era interessante, avevo letto un sito su gli ex della Folgore. C'è un sito degli ex della Folgore, che non mi ricordo, tipo Folgore in congedo, qualcosa del genere, che parlava di questa notizia in qualche modo irridendo gli eserciti non professionisti. Però vabbè, ora non c'è tempo e non è interessante. Ci sarebbe tanto di parlare, e infatti lasciamola cadere. Ma non è l'argomento cosa. Di oggi cadere. Però volevo aggiungere qualcosa in realtà, ma mi è sfuggito, quindi non importa. Però dicevamo appunto, paesi che cercano di entrare nell'Unione Europea, ma è come la Serbia, da tanto che cercano di entrare e non riescono, cioè ancora non Sì, non ci sono orientati, non sono riusciti a portare a termine il processo, molto anche non solo per il paternalismo europeo, ma molto anche per farina nel loro sacco, cioè per inadempienza verso i propri cittadini. La Serbia è un esempio particolarmente vivace. Non abbiamo più tempo, quindi vi segnalo anche questo articolo. Il programma di riforma del governo serbo, requisito fondamentale per l'accesso della Serbia ai fondi europei previsti dal nuovo piano di crescita dei Balcani occidentali, viene nascosto all'opinione pubblica. Troppi pochi progressi compiuti o motivazioni più profonde? Lo scoprirete leggendo questo articolo. Sempre oggi la fonte è unica, Osservatorio Balcanico Caucaso.org, articolo molto interessante, ne parlerò all'Urlo dei Balcani, quindi se vi fate a leggerlo ascoltatevi l'urlo, altrimenti andatevi a leggere. Però rimaniamo sempre in quota Serbia, perché riprendiamo una notizia della volta scorsa. Il scorso Punte Radio in quota Wombat abbiamo parlato dello sfruttamento delle miniere, delle risorse balcaniche per l'economia europea. Andatevelo ad ascoltare se non lo avete ascoltato, perché era veramente eccellente. Grazie. Non c'ero io, quindi lo posso dire. Buon diritto. Abbiamo parlato del progetto della multinazionale Rio Tinto in Serbia per l'estrazione di litio nella Serbia occidentale delle proteste. Ci sono delle novità interessanti che svelano anche un po' com'è la faccia del governo serbo, e quindi andiamo... E com'è la faccia del governo serbo? Giano Bifronte. Doppia. Quindi, sì. L'ho definita così. Bella definizione. Appunto, il presidente Vučić ha trascorso 8 ore a Ljubovija incontrando i cittadini della Serbia occidentale, tra cui anche gli attivisti contrari all'estrazione del litio. Non sto a ridirvi quanto devasterebbe qualsiasi cosa. All'incontro hanno partecipato anche rappresentanti delle compagnie australiano-britannico Rio Tinto, è una multinazionale australiano-britannica, guidata dal direttore Jakob Stausholm. L'incontro si è svolto il 7 settembre ed è stato trasmesso da 2 emittenti televisive a copertura nazionale. Il presidente Vučić ha cercato di rispondere alle polemiche delle proteste di massa organizzate quest'estate in tutto il paese contro il Rio Tinto e lo sfruttamento del suolo. Anziché avviare un dibattito tra istituzioni ed esperti, il presidente serbo e il direttore della multinazionale sono scesi tra la gente. Nel corso dell'estenuante spettacolo abbiamo sentito di tutto e di più, dalle critiche a Rio Tinto, all'invito di un cittadino al presidente di venire a bere un pochino di grappa a casa sua. Dopo tante ore di diretta, però, ancora non si sa che fine farà il progetto Jadar, che è il progetto di estrazione del litio, e quali saranno concretamente le garanzie di sicurezza ecologica. Al termine dell'incontro con i cittadini, Vučić ha dichiarato che affrontare il progetto Rio Tinto sarà una grande sfida, un braccio di ferro, aggiungendo, e teme che Rio Tinto possa investire meno soldi nella protezione dell'ambiente per avere maggiori profitti. Oh, buono Vučić, davvero? Invece l'unico interesse di Vučić, ha sottolineato il presidente, sarebbe la salute della popolazione locale. Se i cittadini non saranno salvaguardati, il progetto non si farà. Punto, dice Vučić. E dopo il punto uno non si aspetterebbe di sentire altro, no? Esatto. E Vučić ci ha chiuso così proprio l'argomento. Poi però ci ha ripensato. La protesta contro Rio Tinto e l'estrazione del litio nella Serbia occidentale si protrae ormai da diversi anni. Dopo le elezioni locali del giugno 2024, la Corte Costituzionale ha annullato il decreto del governo del 2022 con cui era stato sospeso il progetto di scavo di una miniera di litio nella valle del fiume Jadar a causa delle proteste di massa. Con la sua sentenza, la Corte Costituzionale ha dato così il via libera alla campagna Rio Tinto per portare avanti il progetto. Cioè, il progetto era stato fermato, però chiaramente la Rio Tinto ha fatto ricorso e la Corte Costituzionale ha detto no, hanno ragione loro, possono andare avanti. Pochi giorni dopo la decisione... La decisione della Corte, lo scorso 19 luglio, Vučić ha ospitato il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il vicepresidente della Commissione Europea Maros Sefcovic al vertice sulle materie prime critiche che si è tenuto a Belgrado. È stato firmato un memorandum d'intesa tra Unione Europea e Serbia sul partenariato strategico sulle materie prime critiche, sulla catena di produzione delle batterie e sui veicoli elettrici. Ricordiamo, Green Deal, auto elettriche, serve il litio per fare le batterie, dov'è il litio? E la Serbia ce n'ha tanto sottoterra e quindi bisogna andare a sbuzzare tutto. Qual è stata l'affermazione di Vučić in tale consenso? Il buon Dio ha permesso che... A parte iniziare col buon Dio, sì, bellissimo. È incredibile, è vero. Il buon Dio ha permesso che il minerale tanto ricercato e una delle materie prime più importanti si trovasse in questo paese. Forse dovrebbero essere utilizzato, forse è una fortuna per questo paese. Oh, c'è una polemica recente su un judoka serbo che si è fatto il segno della croce prima di partecipare a un campionato di judo ed è stato escluso per 5 mesi perché nel judo non si può fare segni religiosi. Sì. Fra parentesi, giusto, è così. Vero, è vero, l'avevo letto. È un passant. È un passant. Così. Comunque è sempre interessante. Quindi, Giano Bifronte, dicevamo, questa affermazione a luglio e poi ora a settembre ci dice no, ma io voglio il vostro benessere. Ma nel mentre, in realtà, cosa è successo? C'è stata una bella caccia agli attivisti. Quando Vučić si è, quanto Vučić si è interessato a questo controverso investimento lo dimostra anche il fatto che dopo le proteste di massa organizzate in tutta la Serbia è iniziata la caccia ai cittadini che si opponevano al progetto. Secondo il movimento ambientalista Kreni Promen, Kreni Promeni, cioè Avvia il cambiamento, tra i 30 e i 60 attivisti e cittadini che hanno protestato sono stati interrogati dalla polizia. Il portale investigativo CINS ha registrato 30 casi di arresti, colloqui informativi con polizia, confisca di laptop e cellulari e perquisizioni di appartamenti di cittadini che si oppongono al progetto di estrazione del litio. Emblematico il caso di Aleksandar Maktovic, collaboratore scientifico dell'Istituto di Scienze Economiche di Belgrado, che ha ricevuto minacce di morte dopo la pubblicazione di un'analisi dei piani di estrazione del litio. Secondo quanto riportato dai media, la polizia e la BIA, che sono i servizi segreti serbi, hanno perquisito gli appartamenti di alcuni amici di Maktovic. Tutti gli attivisti sono stati interrogati perché sospettati di sovversione dell'ordine costituzionale. In una risposta allo slogan dei manifestanti è stato creato il sito web Copacemo, cioè Estrarremo, dove sono state pubblicate foto e nomi dei cosiddetti terroristi ambientali. E questo non è l'unico elenco di questo tipo. L'attuale tendenza della... che poi, insomma, delle destre in generale e di queste situazioni appunto di governi che, come si dice, opprimono, insomma, il popolo. Oppressori, direi, oppressori, che va benissimo. È quello dello schedare e rendere pubblico. Guarda la situazione in Ungheria di tutti gli attivisti di sinistra che vengono... Cioè, sono proprio dei siti dove vengono pubblicati nomi e indirizzi. Ecco. La stessa Salis... ti ricordi il giudice che per errore ha detto dove sarebbe andata ai servizi domiciliari? Se vi capita di leggere il fumetto di Zero Calcare che parla proprio della Salis, è molto interessante da questo punto di vista, perché ti racconta, lui c'è andato là, ti racconta qual è l'area che tira là. Ecco, però allo stesso modo in questi paesi che sono, non sono autoritarismi ma hanno un bel odore forte di autoritarismo, succede questo, cioè schedare i dissidenti, punto, e renderlo pubblico, perché così poi dopo possono andare a minacciare chiunque. Cioè, non lo deve fare lo Stato, non si sporca le mani, ma... no, nonché scoraggiare i futuri attivisti, certo. Esatto. Lo scorso 25 agosto al cantante croato alla cantante croata Saverina Vuković è stata fermata al confine con la Serbia mentre stava per esibirsi a Belgrado. La polizia ha perquisito la sua auto e l'ha interrogata sulle sue opinioni sui crimini di Srebrenica e quelli accaduti in Croazia durante l'operazione Oluja del 95. Vuković è stato interrogato anche in materia al suo sostegno alle proteste contro l'estrazione del litio. Dačić, ministro dell'interno serbo, ha dichiarato che la cantante è stata interrogata sulla base di liste di reati verbali. È intervenuto anche Vulin, Aleksandar Vulin, che è il vice premier, affermando che mentre era ministro della polizia a capo della BIA aveva redatto liste di persone alle quali dovrebbe essere vietato l'ingresso in Serbia per legge e per coscienza, ha detto lui. Vulin ha aggiunto che si rammarica di non essersi dedicato maggiormente a suddette liste perché vede quanta feccia ne è stata ingiustamente esclusa. Vice premier, quindi dice queste cose. È chiaro quindi che oltre alla lista degli stranieri esistono anche le liste dei cittadini serbi. Milica Randelovic, moderatrice della pagina Facebook Aktivizam, è stata fermata all'aeroporto di Belgrado mentre era in vacanza per poi essere interrogata sulle sue attività sui social. Il suo telefono è stato confiscato perché sospettata di incitare al rovesciamento violento dell'ordine costituzionale. Drammatico anche il caso di Sofia Todorovic, presidente dell'organizzazione Iniziativa Giovanile per i Diritti Umani, che negli ultimi due mesi è stata fermata alla frontiera 10 volte. La detenzione e le perquisizioni sono durate da 1 a 4 ore lo scorso 5 settembre, mentre tornava dalla città tedesca di Aquisgrana, dove ha ricevuto, a nome della sua organizzazione, il premio per la pace di Aquisgrana. Cioè, quindi questa va a prendere un premio internazionale per la pace, torna, boom, sequestro. E 4 ore di interrogatorio. E 4 ore di interrogatorio, gratis. Rio Tinto non è la prima compagnia controversa che la leadership serba, guidata da Vucic, ha portato in Serbia, così come il progetto di costruire una miniera di litio su un terreno fertile nella Serbia occidentale non è il primo investimento problematico nel paese, in tutto ciò spinto anche dall'Europa. In alcuni casi simili, a parte i reportage dei media e le proteste degli attivisti locali, non ci sono state ulteriori reazioni. Qui la domanda sorge spontanea: perché proprio il progetto Jadar ha causato così tante polemiche? La spiegazione sta nel fatto che una parte degli abitanti di Makva, l'area in cui è prevista l'estrazione, da tempo ormai protesta e gode del sostegno delle organizzazioni ambientaliste, dei partiti di opposizione e di parte dell'opinione pubblica. Anche gli esperti sono fortemente divisi sull'estrazione del litio. Dopo i dibattiti specialistici, spesso incomprensibili ai cittadini, l'unica causa chiara è la paura. Le persone temono di perdere la loro terra e di essere sfollati. Progetti simili vengono annunciati in altre parti della Serbia e c'è il timore che l'intero paese, come si è sentito durante le proteste, possa diventare una discarica ecologica da cui traggono profitto investitori stranieri, cioè noi, no? Siamo comunque coinvolti, ahimè. Per Vucic è particolarmente pericoloso che l'opposizione a Rio Tinto abbia riunito persone provenienti da tutta la Serbia e gruppi diversi, dagli attivisti ambientalisti ai partiti di opposizione, dai lobbisti alle comunità accademiche, dai cittadini contrari all'Unione Europea a quelli che sono semplicemente preoccupati per il futuro. È chiaro che poi si riuniscono tutta una serie di realtà che poi anche fra di loro normalmente non dialogherebbero. Inoltre è emerso che la distruzione e l'emarginazione delle istituzioni da anni portate avanti da Vucic ci hanno portato alla creazione di un clima in cui non c'è alcun dialogo nel dibattito pubblico tra esperti, solo un gran fracasso dove tutto si riduce alla propaganda pro o contro una multinazionale, ossia pro o contro l'estrazione di mineraria in Serbia. Allora, caro Mario, ce la facciamo a dire un'altra... Allora, il nostro tempo sta finendo, quindi siamo arrivati precisi per l'ora e mezzo. È finito. È vero. E pur tuttavia ci sarà anche un podcast, quindi malgrado forse stiamo per essere tagliati, potremo anche aggiungere qualche cosa per chi ci vorrà riascoltare. Che tattica la tua. In podcast. Bello, bravo. Allora, potrebbe essere fra poco, non ci sentirete più, andate a recuperarvi l'ultima notizia nel podcast che verrà pubblicato il giorno stesso. Sì. Fondamentalmente. Poche ore dopo. Perché concludiamo un po' con questi giochi di potere legati alla tanto alle materie prime, allo sfruttamento, alla ricerca di una indipendenza, come si dice, di materiali energetica, volevo dire. E tutti questi movimenti che l'Europa sta portando avanti passano non solo da quello, non solo dalle ferrovie, ma passano anche dai porti, passano dai gasdotti. Quindi ci sono tanti tasselli all'interno del mosaico. E un interessante tassello da portare, secondo me, di cui parlare, dato proprio dai cambiamenti degli assetti dati dalla guerra in Ucraina, per esempio, è il porto fluviale di Giurgiulesti, nella Repubblica Moldava, perché sta diventando un'infrastruttura sempre più strategica sul Danubio. Quindi il ritorno dei fiumi come spostamento di merci. Eh sì. Che quindi poi quello inquinamento dei fiumi e bla bla bla. Ecco perché la Romania sta tentando di acquistare il controllo per aumentare la sua influenza economica nella regione. Perché se riesce diventerebbe un tassello importante. Certo, fa parte dell'Europa, ma la Romania in qualche modo vuole, sta un po' sgomitando per cercare di avere un ruolo più attivo. Per esempio il presidente romeno ha cercato di avere la presidenza europea, si era candidato. È vero, è stato l'ultimo a ritirarsi quando ormai ha capito, l'ha fatto soltanto quando ha capito che nessuno l'avrebbe sostenuto. Esatto. Fino all'ultimo momento c'è stato agganciato a questa candidatura. La retorica della Romania principalmente è legata alla questione della difesa, dicendo che sono il confine con fuori dell'Europa e ha già tante basi militari NATO all'interno, per cui è anche un obiettivo facile militare. E quindi in virtù di questo chiede più importanza, ma nel mentre cerca di lavorare ai fianchi proprio dal punto di vista economico, che poi è quello più remunerativo alla fine dei conti. Il governo romeno ha confermato l'intenzione di acquistare il controllo del porto di questo devo dire piano, Giurgiulesti, dalla Repubblica di Moldavia, unico porto del paese confinante. L'avvio dei negoziati con la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo è stata cioè la banca è la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo, chiaramente non è che vai dalla banca per la è stato approvato dall'esecutivo di Bucarest alla fine del mese di agosto con un memorandum. Lo Stato romeno non è l'unico che aspira ad acquistare il porto, chiaramente. L'acquisizione da parte di Bucarest porterebbe ad un significativo rafforzamento dell'infrastruttura portuale della Romania ed aumenterebbe la sua influenza economica nella regione, con un chiaro vantaggio strategico nell'attuale contesto di incertezza geopolitica, in particolar modo l'incertezza è nel Mar Nero, chiaramente, dove ci sono le flotte russe che girano e anche un po' quelle americane che pattugliano, un bel casino. Il memorandum sottoscritto riguarda l'avvio di negoziati con la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo in vista dell'acquisizione da parte dello Stato rumeno attraverso una società commerciale sotto l'autorità del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, delle azioni della Danube Logistic SRL, detenuta dalla stessa Banca per lo Sviluppo, che chiameremo BERS da questo momento in poi, nel porto internazionale franco di Giurgiulesti. Il porto nel sud del paese è l'unico nella Repubblica di Moldavia accessibile alle navi marittime, quindi è molto importante. Certo. Già un anno fa il primo ministro romeno, che è Ciolacu, aveva annunciato l'interesse dello Stato romeno per il porto e disse: uno degli snodi più importanti per la ricostruzione dell'Ucraina dopo la fine della guerra sarà la Romania, e la Romania questa volta deve essere logisticamente preparata per questo hub. Aggiunse poi anche: dobbiamo renderci conto che il porto di Costanza è strategico in questo momento, non so cosa succederà a Odessa, porto fondamentale del Mar Nero, che chiaramente è tutto distrutto e bombardato, circondato da navi russe. È un porto che non funziona oggettivamente, non si può più usare in questo momento. E quindi è chiaro che invece il porto di Costanza acquisisce un'ulteriore importanza strategica e comunque di passaggio di merci. Il porto internazionale franco di Giurgiulesti si trova a 133,8 km dal Mar Nero, sul fiume Danubio. Il porto fluviale è un nodo logistico di importanza strategica che offre agli importatori ed esportatori servizi di trasbordo e stoccaggio con accesso ad infrastrutture di trasporto trimodale. Giurgiulesti si trova sul settore marittimo del fiume Danubio, con una profondità di acque fino a 7 metri che consente l'ormeggio di navi fluviali e marittime. Quindi non solo chiatte che hanno un pescaggio basso, di solito le chiatte fluviali sono piatte, perché non hanno certo, sotto, non c'è fondale sufficiente, si incaglierebbero. Questo fiume lì, in questo porto qua, invece raggiunge un fondale idoneo anche a molte navi marittime, chiaramente non a petroliere enormi, ma comunque a navi marittime. Dallo scoppio della guerra in Ucraina, il volume delle merci trasbordate attraverso il porto di Giurgiulesti è aumentato in modo significativo, ammontando a circa 5,6 milioni di tonnellate. Sono numeri che io non riesco mai a quantificare. Sono cifre che fanno girare la testa, come diceva quello. Esatto. I trasbordi di merci hanno superato i 2,6 milioni di tonnellate, toccando i limiti della capacità del porto. Il complesso portuale di Giurgiulesti è diventato più attraente per gli operatori economici locali, soprattutto dopo che le aree portuali di Odessa e Reni sono diventate bersaglio degli attacchi russi. Questo l'aveva affermato per la sezione moldava di Radio Europa Libera Igor Zaharia, direttore dell'agenzia navale moldava. Il porto si trova quindi oggi in una posizione strategica a confine della Repubblica Moldava con la Romania e Ucraina, grazie all'accesso diretto al Mar Nero tramite navi marittime ai paesi situati lungo il Danubio tramite chiatte fluviali, nonché all'accesso ai collegamenti ferroviari verso paesi dell'ex CSI. Cos'è l'XSI? Il consorzio degli stati... Bravo. Comunità degli stati indipendenti. Comunità degli stati indipendenti, bravo. E i paesi membri dell'Unione Europea, Giurgiulesti si sta trasformando in un centro logistico di grande importanza per l'intera regione, come si può leggere nella homepage del sito del porto. Se volete c'è il link, potete andarvelo a vedere. Io non l'ho neanche aperto, sinceramente non mi interessa, però può essere carino. Secondo l'accordo firmato, i vari investimenti nel porto hanno assunto i seguenti obblighi: la Danube Logistica SRL di rinnovare il porto, la Bemol Retail di costruire una rete di stazioni di servizio e la Bemol Raffinery raffineria, vuol dire raffineria, non so la pronuncia, di costruire una raffineria di petrolio, Il 7 maggio 2021 la Bersa ha acquisito il 100% del capitale della Danube Logistic, l'operatore del porto, che è di fatto l'operatore del porto di Giurgiulesti. Il governo di Chisinau, il governo rumeno, ha accettato di affittare 120 ettari alla Danube Logistic per 99 anni. Bello, 99 anni. Sì. In cambio di un pagamento annuo simbolico di $1,000. Anche questo non è male. Non male, scrive la stampa moldava. L'esecutivo moldavo si impegna poi a riabilitare le infrastrutture stradali, ferroviarie e rete elettrica, gasdotto e tutto quello che c'è lì intorno. Quindi la Moldavia spera di avere un ritorno di infrastrutture e di giromerci, la Romania di diventare un punto, un hub logistico fondamentale non solo per la ricostruzione dell'Ucraina dopo, quando sarà, se sarà, ma anche proprio per il passaggio di merci. Quindi di fatto diventerebbe lei la gestrice, ma di fatto c'è dietro l'Europa, sì. C'è la banca, anzi nell'Europa, la banca europea per... adibita proprio a questo scopo, sì. La Danube Logistic non ha però confermato l'informazione relativa ai $1,000 annuali. Dice no, non è vero, poi tanto sarà così sicuro. Saranno 999. E ha precisato che il costo reale è confidenziale, non si può dire. Secondo l'emittente ProTV Chisinau, il porto è diventato oggetto di una controversia tra diverse società e banche internazionali. Chiaramente ci si stanno buttando. Malamente, che hanno prestato questa attività. Il porto è oggi amministrato dalla BERS, ma in passato, per quasi due decenni, è passato tra le mani di società azere, cioè Azerbaigian, olandesi, austriache, società offshore di Cipro o delle Bahamas. Insomma, ci passavano di tutto e di più. La storia del porto nell'ultimo quarto di secolo è quindi piuttosto tortuosa, ricca di conflitti, acquisizioni controverse e contenziosi nei tribunali di Olanda, Gran Bretagna e Repubblica Moldova ancora aperti. Il primo ministro moldavo, che è Dorin Resean, ha confermato l'esistenza di negoziati con il governo di Bucarest sull'intenzione della Romania di acquisire questo porto e dice: siamo ora nella fase di analisi delle opportunità. Il premier moldavo ha aggiunto che la Bersa è in trattativa con diversi potenziali investitori, tra cui quelli provenienti da Romania, Turchia, Paesi Bassi e Danimarca. La stampa romena ha aggiunto due ulteriori potenziali acquirenti che sembrerebbero essere due miliardari bulgari. Ecco. Le autorità di Chisinau vogliono fare chiarezza, dice: a Giurgiulesti operano due entità infrastrutturali portuali, cioè il porto franco internazionale di Giurgiulesti, che appartiene alla Banca Europea per la risoluzione del BERS, e il porto statale, che è di proprietà dello Stato. Non si discute della vendita del porto statale, dice, solo di quello gestito dalla BERS, che però è quello più consistente. Questo lo ha precisato il portavoce del governo moldavo. Dal suo canto, la presidenza della Repubblica di Moldava, Maia Sandu, è la presidentessa della Repubblica, ha commentato l'intenzione della Romania di acquisire il porto dicendo: ci sono ancora dei punti da chiarire, è una lunga storia, la decisione spetta alla BERS. Non mi rompete le palle, no? Non so se ha aggiunto questo, ma quindi non ha detto niente. Tra litigi e vari casi di corruzione invocati nel passato, il valore strategico del porto aumenta da un giorno a un altro e la Romania, portavoce degli interessi della Repubblica di Moldova nell'Unione Europea e in altre organizzazioni internazionali a cui Chisinau aspira, non vorrebbe perdere l'occasione di amministrare un obiettivo importante nel trasporto delle merci nella regione. Commenti? Interessante questo aspetto del fiume, che la Moldavia non ha sbocco sul mare, però allo stesso tempo centinaia di chilometri, decine, quanto hai detto, 130 chilometri di fiume fino al mare, cioè sì, 133, sì. Navigabili, il porto è presso il confine alla Romania, se non sbaglio parlano rumeno in Moldavia, e poi c'è anche la questione, di nuovo se non sbaglio, della Transnistria e quindi... No, invece no, mi sa che parlano qualcosa, perché il romeno è una lingua latina, no? Sì. E invece il moldavo è una lingua, mi sa... Ah no, mi pareva non avessero... Russa, okay, come si dice, non russa, ma lingua slava. Sì, Ok, come non detto allora questo aspetto. Credo, però la prossima volta lo chiariamo. Controlliamo comunque. Ma in effetti ci sono un sacco di cose di cui non abbiamo parlato. Avevi altri approfondimenti sulla Bosnia. Mi avevi annunciato il nucleare, di cui non abbiamo nulla detto. Molto interessante. Io stesso avrei voluto, lo sapevi, parlare di letteratura, poesia, Macedonia del Nord. E allora, semplicemente, che fare? Rimandare, direi, all'Urlo dei Balcani, nel quale tutto questo sarà sicuramente affrontato. Ci impegniamo. Sì, sì, assolutamente. È una promessa, direi. Smaniamo, anzi. Sì, sì. Ai prossimi Ponte Radio con le nostre radio sorelle, che chissà quali temi conosceranno. Sarà una scoperta che vedremo tutti quanti assieme. E se mi dai tempo, visto che ormai abbiamo sforato, sforare per sforare, io vorrei mettere un ultimo pezzaccio, sì, visto dai, che di Moldavia abbiamo parlato, c'è un gruppo moldavo che a me piace moltissimo. Sì, assolutamente. Dai, allora mettiamo e salutiamoci con questa ultima canzone. Questi sono gli Zdob... Allora, aspetta, lo devo pronunciare, anch'io leggo. Oppure lo so, vado a braccio, è dai. È un mestiere difficile. Zdobzi Zdub, sì, certo. Zdobzi Zdub. Bonica Bate Doba. Che vuol dire La nonna suona il tamburo, è una canzone dedicata a tutte le nonne del mondo, a me piace tanto e allora direi che con questa ci possiamo lasciare, lasciando tutti quanti con un grande saluto qui da Radio Wombat. Io sono Mario. Io sono il buon Tuco. E alla prossima. Wombat! Unica va de doba, unica va de dare, unica.